all'interno della missione di Mediterranea, che come è noto è stata una missione umanitaria che ha portato sia ai campi profughi al confine polacco, sia nella città di Leopoli, in alcuni ospedali, in alcuni enti, associazioni, istituzioni di aiuti umanitari. Siamo riusciti anche ad avere una scatola, uno scatolone di 30 volumi per la fiera del libro dei ragazzi qui a Bologna. Questi libri non riuscivano a passare il confine nella misura in cui c'erano problemi con le spedizioni, problemi logistici e quindi la missione di Mediterranea ha consentito che invece questi libri arrivassero fino a qui. Sono libri che sono stati raccolti dall'Ukrainian Book Institute in giro per l'Ucraina, dalla città di Kharkiv, da Kiev e altre città sotto bombardamento, e molti altri non sono riusciti ad arrivare. C'erano quindi problemi logistici anche interni, nella misura in cui alcuni autori hanno donato loro stessi alcuni dei volumi perché non c'era la possibilità di prenderli all'interno delle biblioteche di Stato nelle diverse città. Quindi è stata, come dire, un gesto molto importante, credo. È stato anche emozionante riceverli a ridosso del coprifuoco con questa la responsabile dell'Ukrainian Book Institute, che è arrivata in taxi poco prima del coprifuoco a donarci questi libri, e per loro è un gesto molto importante, anche perché un paese, anche una città come Leopoli, che ha i monumenti coperti per la difesa dai razzi, tutte le istituzioni che sono preparate alla difesa in qualche modo, e quindi, come dire, la cultura cancellata dalla visibilità, no, delle persone, poter invece far passare dei libri attraverso la frontiera in una fiera internazionale è una cosa molto importante. Inoltre ci sono la città di Leopoli, una città che ha 700.000 abitanti e che in questo momento ospita 200.000 profughi, alcuni luoghi culturali della città sono trasformati in centri di accoglienza, quindi al posto del palco e delle esposizioni ci sono migliaia di brandine in alcuni di questi luoghi, e quindi ecco, dietro la guerra c'è anche un tema di culturale, di accessibilità alla cultura, e io penso che questo pezzo della missione comunque abbia avuto un'importanza come ce l'ha avuto il fatto che siamo riusciti a portare 177 persone in salvo oltre la frontiera. Un aspetto anche molto molto simbolico, quello della cultura. Ecco, un po' è già raccontato, però più in generale, che situazione avete trovato? Leopoli è, come è noto, la principale città dell'Ovest ed è capoluogo della regione. Una città che è diventata simbolo dell'accoglienza dei profughi, perché da Leopoli sono passati 3 milioni di profughi dall'inizio della guerra. È una città che prova a vivere una normalità, nella misura in cui non è assediata dai razzi e dai bombardamenti come altre città dell'est o come Kiev. Tuttavia ci sono stati degli attacchi a pochi chilometri da Leopoli, in una base militare. Proprio la mattina in cui noi siamo arrivati, che abbiamo oltrepassato la frontiera facendo ingresso in Ucraina, dei razzi hanno colpito l'aeroporto che sta all'ingresso della città, e quindi c'era comunque molta preoccupazione, e le sirene suonano in continuazione anche di notte, e quindi i cittadini si devono riparare nei bunker, nei sotterranei, però allo stesso tempo provare a fare una vita normale. C'è il coprifuoco alle 22, il divieto assoluto di consumo, acquisto di alcolici. Questa è un po' la situazione che abbiamo trovato. Una città anche nei suoi ingressi molto militarizzata, con tantissimi checkpoint, blocchi stradali, sistemi di difesa come i cavalli in crisi, terrapieni, trincee, insomma tutti i dispositivi militari a difesa della città già pronti. Ecco, un po' questa. All'interno della città invece, ribadisco, si prova a vivere una vita normale, ecco.